Terzo anello ad alta voce, Lord Jim di Joseph Conrad. Non appena poté camminare senza bastone, Jim scese in città alla ricerca di un'opportunità per tornare in patria. In quel momento non c'era nulla e nell'attesa frequentò naturalmente quelli del porto che esercitavano la sua stessa professione. Ce n'erano di due tipi. Alcuni che erano una minoranza e si facevano vedere assai di rado, conducevano una vita misteriosa. Avevano conservato un'energia intatta, una collera da bucaniere e occhi di sognatore. Sembravano vivere in un folle labirinto di progetti, speranze, pericoli, imprese, fuori dal mondo civile, nei recessi più remoti del mare. E la loro morte pareva essere il solo evento della loro straordinaria esistenza di cui si potesse avere una ragionevole certezza. La maggioranza era invece formata da uomini che, come lui, capitati lì per qualche incidente, vi erano rimasti come ufficiali di navi locali. Costoro inorridivano adesso alla prospettiva di imbarcarsi sulle navi inglesi, dove le condizioni erano peggiori, l'idea del dovere più dura e i viaggi esposti ai pericoli degli oceani tempestosi. Avevano trovato una sintonia con l'eterna pace del mare e del cielo dell'Oriente. Amavano i viaggi brevi, le comode sedie a sdraio, i grossi equipaggi indigeni e il prestigio che veniva dall'essere bianchi. Rabbrividivano al pensiero di dover lavorare molto e conducevano una vita facile e precaria, sempre prossimi al licenziamento, sempre prossimi a un ingaggio al servizio di cinesi, arabi, meticci. Sarebbero entrati al servizio del diavolo stesso se avesse assicurato loro un lavoro poco pesante. Nei loro discorsi parlavano in continuazione di colpi di fortuna, come Tizio avesse preso il comando di una nave sulle coste della Cina, una cosa semplice, e come questo avesse avuto un posto facile in qualche punto del Giappone e come quello stesse benissimo nella marina siamese. E in tutto ciò che dicevano, nelle loro azioni, nei loro sguardi, nelle loro persone, si poteva scorgere un'unica debolezza, il desiderio di trascorrere, gironzolando, un'esistenza sicura e tranquilla. A Jim quella massa di marinai pettegoli, dal punto di vista marinaresco, sembrò inizialmente più irreale di una folla di ombre. In seguito però scoprì che quegli uomini avevano un certo fascino, perché sembrava che riuscissero a guadagnare bene con una razione così modesta di fatica e di rischio. E con il passare del tempo, accanto al disprezzo, sorse in lui un altro sentimento, e rinunciando improvvisamente all'idea di tornare a casa, assunse un incarico di primo ufficiale sul Patna. Il Patna era un bastimento a vapore, locale, vecchio come il mondo, sottile come un levriero e mangiato dalla ruggine più di una cisterna in disarmo. Il proprietario era un cinese, ma era stato noleggiato da un arabo e aveva come comandante una specie di rinnegato tedesco del Nuovo Galles del Sud, molto ansioso di condannare pubblicamente il suo paese nativo, ma che brutalizzava, evidentemente facendosi forte della vittoriosa politica di Bismarck, tutti coloro che non gli incutevano paura e che univa un'aria ferro e sangue, un naso paonazzo e baffi rossi. Sulla nave, verniciata di fresco all'esterno e imbiancata all'interno e ferma all'ancora lungo un pontile di legno con le caldaie già accese, furono caricati circa 800 pellegrini. Sciamarono a bordo da 3 passerelle con il fervore della fede e la speranza del paradiso. Sciamarono a bordo con un calpestio incessante, con un fruscio dei piedi nudi, senza una parola, senza un mormorio, senza uno sguardo volto all'indietro. E quando ebbero oltrepassato le murate, si sparsero in ogni parte del ponte, invasero la prua e la poppa, scesero a frotte dai boccaporti spalancati, riempirono i recessi più interni della nave come acqua che riempie una cisterna, come acqua che scorre in ogni angolo e fessura, come acqua che sale silenziosa fino all'orlo. 800 uomini e donne pieni di fede e di speranze, di affetti e di ricordi, che erano affluiti lì dal nord e dal sud e dalle estreme località dell'Oriente dopo aver percorso i sentieri della giungla, dopo aver disteso i fiumi, costeggiato le secche sui prao, dopo essere passati su canoe da un'isola all'altra, dopo aver sofferto, dopo aver fatto strani incontri, assaliti da strane paure, spinti da un solo desiderio. Venivano da capanne solitarie, in luoghi sperduti, da popolosi kampong, da villaggi sul mare. Al richiamo di un'idea avevano lasciato le loro foreste, le loro radure, la protezione dei loro capi, la loro prosperità, la loro povertà, i luoghi della loro giovinezza e le tombe dei loro padri. Arrivavano coperti di polvere, di sudore, di sudicio e di stracci. Uomini forti alla testa di gruppi familiari, vecchi macilenti che avanzavano stancamente senza speranza di ritorno, ragazzi che volgevano attorno curiosi occhi impavidi, fanciulle vergognose dai lunghi capelli arruffati, timide donne imbacuccate che stringevano al seno i bambini addormentati avvolti nei lembi degli scialli sudici, pellegrini ignari di un'impegnativa fede. «Guarda, questi sembrano bestie», disse il comandante tedesco al suo primo ufficiale. Il capogruppo della pia comitiva, un arabo, salì per ultimo. Camminava lentamente, bello e grave, con la sua veste bianca e il suo grande turbante. Lo seguiva una fila di servi carichi del suo bagaglio. Il Patna mollò gli ormeggi e si staccò dal molo. Passò in mezzo a due isolette. Traversò in diagonale le acque dove erano ancorate le navi a vela. Percorse un semicerchio all'ombra di una collina, quindi si avvicinò a un gruppo di scogli spumeggianti. L'arabo, in piedi a poppa, recitò ad alta voce la preghiera dei naviganti. Invocò il favore dell'Altissimo su quel viaggio. Implorò la sua benedizione sulle fatiche degli uomini e sui segreti disegni dei loro cuori. Nel crepuscolo il piroscafo fendeva con il rombo delle caldaie la placida acqua dello stretto, e dietro di esso la luce ruotante di un faro piantato da infedeli su una secca traditrice sembrava ammiccare con il suo occhio fiammeggiante, come per deridere quella missione di fede. Thank you. Sul ponte Jim era pervaso da quel messaggio immenso di sicurezza e di pace senza fine, che si poteva leggere nell'aspetto silenzioso della natura come la certezza dell'amore e della protezione nella placida tenerezza del viso materno. Sotto i tendoni, abbandonati alla saggezza dei bianchi e al loro coraggio, fiduciosi della forza degli infedeli e della ferrea possanza delle loro navi da guerra, quei pellegrini di un'impegnativa fede dormivano su stuoie, su coperte, sulle nude tavole, su ogni ponte, in tutti gli angoli bui, avvolti in panni colorati, imbacuccati in sudici stracci, con la testa reclinata su piccoli fagotti, con la faccia appoggiata sugli avambracci piegati. Gli uomini, le donne, i bambini, vecchi con giovani, decrepiti con vigorosi, tutti uguali davanti al sonno, fratello della morte. Una bava di vento che soffiava da prua a causa della velocità della nave spirava costantemente su quella lunga tenebra fra gli alti parapetti delle murate. Passava sulle file dei corpi allineati. Qualche debole fiammella ardeva in globi appesi qua e là alle traverse delle tende e negli indistinti cerchi di luce che scendeva, oscillando leggermente per l'incessante vibrazione della nave, apparivano un mento girato verso l'alto, una mano bruna con anelli d'argento, un magro arto avvolto in una coperta stracciata, una testa volta all'indietro, un piede nudo, una gola scoperta e protesa come se si offrisse al coltello. I più benestanti avevano formato per sé e per le proprie famiglie dei ripari con pesanti casse e stuoie polverose. I poveri riposavano a fianco, tenendo sotto la testa tutti i loro averi avvolti in uno straccio. I vecchi che non avevano nessuno dormivano con le gambe piegate sul tappeto da preghiera, con le mani sulle orecchie e i gomiti ai lati del viso. Un padre, con le spalle alzate e la fronte appoggiata alle ginocchia, sonnecchiava tristemente accanto a un ragazzo che dormiva supino con i capelli arruffati e un braccio steso prepotentemente. Una donna, coperta dalla testa ai piedi come un cadavere con un pezzo di lenzuolo bianco, teneva un bambino nudo nel cavo di ciascun braccio. I bagagli dell'arabo, accatastati proprio a poppa, formavano una pesante massa di linee irregolari, con una lampada da marina che dondolava su di loro, e dietro una grande confusione di vaghe forme. Riflessi di panciuti boccali di ottone, l'appoggiapiedi di una sedia a sdraio, punte di lance, il fodero diritto di una vecchia spada appoggiata a un mucchio di guanciali, il beccuccio di una caffettiera di latta. Sul coronamento, il solcometro emetteva periodicamente un tintinnio ad ogni miglio percorso in quella missione di fede. Al di sopra della massa di dormienti, a volte galleggiava un debole e paziente sospiro, segnale di un sogno inquieto. Ma dalle profondità della nave uscivano all'improvviso brevi rumori metallici, l'aspro stridore di una pala, lo sbattere violento della porta di una fornace, che esplodevano brutali, come se gli uomini che maneggiavano quelle cose segrete lì sotto avessero il petto colmo di collera rabbiosa. Mentre l'alto e snello scafo continuava regolarmente ad avanzare senza un'inclinazione dei suoi alberi spogli, continuando a fendere la grande calma delle acque sotto l'inaccessibile serenità del cielo. Jim camminava al traverso e in quel vasto silenzio sentiva fortissimo il suono dei suoi passi, come riverberato dalle stelle vigili. I suoi occhi, che vagavano lungo la linea dell'orizzonte, sembravano scrutare avidamente l'irraggiungibile e non vedere l'ombra dell'evento prossimo. La sola ombra sul mare era quella del fumo nero, che usciva denso dal fumaiuolo in un immenso pennacchio, la cui estremità si dissolveva continuamente nell'aria. Due malesi, silenziosi e quasi immobili, erano impegnati ognuno ad un lato della ruota del timone, il cui bordo di ottone brillava irregolare nell'ovale di luce che usciva dalla chiesuola. Di tanto in tanto le dita nere di una mano apparivano nella parte illuminata, mentre afferravano e lasciavano ritmicamente le caviglie della ruota. Gli anelli della catena cigolavano pesantemente nelle scanalature del tamburo. Jim diede un'occhiata alla bussola, un'occhiata all'irraggiungibile orizzonte, si stiracchiò fino a quando le giunture non scricchiolarono alla lenta torsione del corpo in un eccesso di benessere, e quasi reso audace dall'aspetto invincibile di quella pace, provò una profonda indifferenza per tutto ciò che potesse capitargli da allora sino alla fine dei suoi giorni. Ogni tanto guardava pigramente la carta nautica attaccata con quattro puntine da disegno su una bassa tavola a tre gambe dietro la cassa dell'agghiaccio. Quel foglio di carta che disegnava le profondità del mare presentava una superficie lucida e i raggi di una lampada ad occhio di bue appesa ad un braccio, una superficie piatta e liscia come la baluginante distesa delle acque. Su di essa erano posate due parallele con un paio di compassi a punte fisse. La posizione della nave al mezzogiorno precedente era segnata con una piccola croce nera e la riga diritta, tracciata con mano sicura fino a Perim, segnava la rotta della nave, la via delle anime verso i luoghi santi, la promessa della salvezza, la ricompensa della vita eterna, mentre la costa della Somalia era sfiorata dalla punta aguzza di una matita, rotonda e immobile come l'albero caduto di una nave che galleggia nell'acqua calma di un bacino riparato. Come va diritta e tranquilla, pensò Jim, con ammirazione, con una specie di gratitudine per questa suprema pace del mare e del cielo. In momenti come questi i suoi pensieri erano pieni di atti di valore. Amava questi sogni e le vittorie nelle sue imprese immaginarie. Erano la cosa migliore della sua vita, la sua verità segreta, il suo mondo nascosto. Avevano la ricchezza della virilità, il fascino di una vaga realtà. Gli marciavano davanti al passo degli eroi. La sua anima ne era rapita, era inebriata dal filtro divino di una fiducia illimitata in se stessa. Non c'era nulla che lui non potesse affrontare. Era così soddisfatto di quell'idea che sorrise, continuando meccanicamente a guardare davanti a sé. E quando gli capitò di volgere gli occhi indietro, vide la striscia bianca della scia disegnata dalla chiglia della nave perfettamente diritta sul mare, proprio come la linea nera tracciata dalla matita sulla carta nautica.